Ed eccoci qui con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano sui giochi da tavola, condotto dai dimostratori di Area Games Forlì, Claudio e Pietro. Io sono Pietro e quello in linea con me è mio fratello Claudio. E siamo tornati da non molto tempo dal lontano paese di Rovigo. Già, che prima di questa area dimostrativa non sapevamo neanche che esistesse e in che parte d'Italia si trovasse. E per chi non lo sapesse, si trova in Veneto. Esattamente. Questo episodio partiamo parlando della nostra ultima area dimostrativa associativa in quel di Rovigo, ovvero in quel della Fiera dell'Elettronica di Rovigo. Intanto, cos'è un'area dimostrativa? Un'area dimostrativa è uno spazio dove noi dimostratori di Area Games presentiamo diversi tavoli e giochi alle persone che vogliono fermarsi e giocare con noi. Tutto gratuito, noi spieghiamo i giochi, seguiamo i tavoli e tutto il resto, utilizzando la collezione associativa che continua ad arricchirsi. In un anno di associazione abbiamo più di 50 titoli. Esatto. Come abbiamo potuto poi piacevolmente scoprire, ovviamente non siamo i soli, ma a Rovigo abbiamo avuto anche modo di conoscere un'associazione del luogo che fa il nostro stesso lavoro ed era vicino a noi durante il nostro operato. Stiamo parlando di un'associazione che si chiama La Rosa di Venti, che si trova a Rovigo. Nel caso siete in zona, magari potreste darci un'occhiata e andare a fare qualche serata insieme a loro perché sono molto simpatici. E abbiamo passato, diciamo, la serata insieme a loro, così tra giocatori, per scambiare un po' di opinioni e fare qualche partita insieme. Più che altro l'hai fatto tu perché io mi sono addormentato. Eh beh, sì, era un po' tardino. Comunque, E quindi stiamo parlando, grazie sì. agli amici della Rosa di Venti ho conosciuto il gioco High School, veramente veramente carino. E io invece ho conosciuto Time's Up che mi mancava ed è un grande party game. Sì. Infatti io ve lo dico sempre, ma nessuno mi crede. Vabbè, non ce l'abbiamo noi. Adesso qualcuno lo comprerà. Bene, bene. Allora, parlando dell'area dimostrativa, della quale potete vedere le foto sulla nostra pagina Facebook Area Games ACSD, la cosa che più mi ha incuriosito, che mi ha sorpreso, non incuriosito, nel vedere e nel caricare le foto dell'area dimostrativa, è che qual è stato il gioco più giocato dell'area demo. Tu prova a immaginare, prova a indovinare qual è stato il gioco più giocato. Secondo me è Pandemic Cthulhu perché l'ho fatto giocare tipo 7 volte. E invece no, c'è un gioco che è stato giocato di più e non l'avrei mai detto ed è il gioco è Sherlock's, no scusa, Holmes Sherlock vs. Mycroft, Sì. il gioco della Devir in cui i due fratelli Holmes si sfidano nel risolvere per primi il caso. Un gioco da due, una novità, non è molto, ha un anno penso il gioco e nonostante sia un bel gioco, non avrei mai detto che sarebbe stato il gioco più giocato dell'area dimostrativa. Anche perché spesso non lo apriamo neanche, perché sai, di giochi da due se ne sono tanti. In questo caso invece è stato aperto e setappato ed è stato tutte le coppie che sono passate l'hanno provato. E in quest'area dimostrativa di coppie tra padre e figli, Esatto. madre e figli, fidanzato e fidanzata, amico e amico e amica e amica ne abbiamo avute tante. Hai detto bene, è stata un'area dimostrativa che ha preso più piccoli gruppi di persone piuttosto che grandi. Già, infatti ad esempio il Pandemic Tulu che hai citato prima, se l'avete giocato anche in due, per dire. No, praticamente la maggior parte delle volte che l'ho giocato erano comunque con persone singole e per stare dentro al gioco, nel caso volessero provarlo con più giocatori, anche perché si può giocare anche in due, oltre a me c'era qualche altro nostro dimostratore. Comunque, tornando a Sherlock, appunto, è un bel gioco, a te piace? Molto Adesso sì. carino, sì, io sono stato il primo a provarlo quando sei arrivato. Comunque ho sbagliato, tornando a Holmes, perché in realtà è Holmes Sherlock vs. Mycroft. Sì. Ecco. E, tra l'altro questo gioco, che in realtà è del 2015, pensavo fosse il 2016, fa parte di una nuova tendenza che non avevo notato. In effetti Sherlock Holmes sta spopolando molto, sarà per la serie TV, ma ad esempio Space Cowboy, la casa editrice che si è staccata da Asmodee 3-4 anni fa, nel 2013 forse, non ricordo, ha annunciato diversi titoli a base Sherlock Holmes, ma la Space Cowboy ci ha abituato a giochi nuovi o comunque abbastanza innovativi, tipo Splendor. Invece in questo caso c'è anche una ristampa di un gioco che addirittura è stato stampato da poco, ovvero Sherlock Holmes Consulting Detective. Un gioco che è stato ristampato dopo 20 anni che mancava dal mercato, anzi di più, forse anche quasi 30, ed è già dopo la scadenza dei diritti del precedente editore, viene già ristampato nuovamente. Non pensavo che un gioco come quello avesse tanto bacino di utenza. Ma sarà anche per, cioè stiamo parlando di consulting detective adesso, Sì, giusto? di Consulting Detective. Sarà anche perché probabilmente essendo un gioco molto vecchio ha un suo fattore di rarità, quindi essendo ristampato, chi non ha mai avuto modo di avercelo adesso lo può avere. È vero anche che, come dicevamo qualche episodio fa, è probabilmente il primo co gioco cooperativo della storia. E oltretutto, la cosa strana è questa nuova tendenza che c'è. Allora, prima di dire di parlare di questa tendenza di cui stavo per parlare, chiudendo il discorso della Space Cowboy e Sherlock Holmes, c'è anche da dire che la ristampa di questo gioco ha senso anche perché la Space Cowboy ha annunciato anche il seguito, diciamo, ovvero Consulting Detective Jack the Ripper e West End, quindi diciamo il seguito, che ancora era inedito, e un altro gioco che è Watson e Holmes, e anche questo è una riedizione di un vecchio gioco. Non molto vecchio perché è del 2015, quindi una riedizione di anzi sì, una nuova versione di Watson e Holmes, gioco originale 2015 di Ludonova, ma questo non lo conoscevo. In più hanno già annunciato nuovi casi per Sherlock Holmes, molti nuovi casi, anzi vedo, perché come abbiamo parlato qualche episodio fa, uno dei problemi di Sherlock Holmes Consulting Detective è che i casi sono monouso, diciamo. Una volta che conosci la soluzione, non ha senso rigiocarlo. E Esatto. il gioco base arriva con 10 casi. È uno di quei giochi che ha un numero di scenari che sono ripetitivi, non hanno una serie di variabili, cioè hanno solo un modo per essere completati. Quando tu li risolvi, vedi qual era il percorso da seguire. Quindi non hai modo di rigiocarli perché tu sai già tutto quello che devi fare per vincerlo dopo. Mentre una prima volta è una vera e propria indagine. Alla fine di essa tu sai già che il serial killer è come se fosse un film o un libro, quindi non hai proprio modo di rigodertelo rigiocandolo. Quindi è un gioco, diciamo, che ha delle storie che puoi giocare solo una volta, molto simile al concetto di Time Stories. Ecco, che era proprio quello di cui volevo parlare prima. La nuova tendenza di cui volevo parlare, appunto, sono questi giochi usa e getta, diciamo, che stanno andando molto, perché se ci guardiamo, questo Attenzione, Sherlock. forse usa e getta è meglio per la meccanica Legacy. Ma fa parte di questa categoria. Sì. Volevo dire, se ci guardiamo, tra i giochi che spopolano e vendono di più, abbiamo Time Stories. I giochi con la meccanica Legacy, quindi Risk e Pandemic, E i giochi di miniature. e anche questo Sherlock Holmes Consulting Detective non sta spopolando, diciamo, non è in testa alle classifiche, ma si difende molto bene. E perché se ci guardiamo, a parte i giochi storici che hanno vinto premi o cose simili, o comunque giochi che sono di un autore conosciutissimo, sono pochi i giochi in questo marasma di uscite che c'è nel mondo dei giochi da tavola che vengono riproposti subito dopo che la casa editrice ha finito i diritti. Sì, cioè, e entro pochi anni in questo caso. Sì, no, qui immediatamente, neanche pochi anni. Ad esempio, sì. Abbiamo giochi come Ave Caesar che diventano introvabili perché... Anche Colosseum è un caso di questa tipologia, sì. Esatto, che non hanno vengono ristampati. Hanno fatto i Kickstarter per Colosseum, che tra l'altro è strano perché la Days of Wonder di solito non lascia i propri giochi morire per così tanti anni. Comunque, stavo dicendo, ecco, ad esempio sono giochi come Ave Caesar, per fare un esempio, che aspettano anni prima di essere riproposti, o Betrayal at the House in the Hill, o Mission Red Planet, che hanno aspettato una decina d'anni prima di essere ristampati. Sherlock Holmes Consulting Detective è stato ristampato immediatamente da un editore, quindi questo indica una buona tendenza per quel gioco. E probabilmente è per i film e la serie TV e tutto ciò che c'è di collaterale al personaggio di Sherlock Holmes che c'è in questo momento. E io direi anche perché questo è il periodo in cui questo genere di giochi sta andando molto, quindi se ne, probabilmente hanno sfruttato anche l'onda di questo tipo di meccanica che ha il gioco in sé. Già, e infatti parlando di Time Stories, vediamo che sempre Space Cowboy, in quanto sono anche gli editori di Time Stories, punta veramente tanto su questo gioco, tant'è che hanno annunciato che ogni anno, cioè vabbè, almeno fino al 2018, quindi 2017-2018, usciranno tre espansioni di Time Stories, quindi sei ne sono già in lavorazione, delle quali le prime tre possiamo anche già vedere la copertina, cioè più che la copertina e il retro della scatola e le varie tematiche. Io vorrei dire una mia opinione su proprio un termine per descrivere il gioco Time Stories, a mio parere. Io lo vedo come una serie televisiva. Cioè, Sì. tu la porti avanti nel corso di vari mesi, quindi devi aspettare che esca la prossima per vedere come va avanti la storia. Quindi hai questo gruppo di pubblico, questa fetta di pubblico che è pronta a investire altri soldi per continuare la storia del gioco. Io lo vedo come se fosse una sorta di telefilm tramite gioco da tavola. Sì, può anche essere visto così, in quanto come essendo anche i casi, diciamo, storie autoconclusive sono le avventure del gruppo dei protagonisti del telefilm, possono essere viste. È un telefilm non come quelli moderni che sono sempre una storia continua divisa a episodi nei telefilm moderni, ma più simile a telefilm come Star Trek in cui puoi vedere ogni episodio in maniera autoconclusiva. E tra i nuovi casi annunciati, i tre casi annunciati che usciranno quest'anno, ce n'è uno ambientato nel Medioevo, uno ambientato all'epoca dei pirati e l'altro sinceramente non riesco a capire in questo momento. Estrella Drive si chiama quello che non riesco a capire. E, tra l'altro, sempre Space Cowboy ha annunciato che siccome ci sono parecchie lamentele per il fatto che questa cosa non ci avevo mai pensato, ma è molto intelligente in realtà, cioè non è intelligente, vabbè, adesso ve la spiego. Praticamente molta gente si è lamentata dicendo noi vorremmo comprare Time Stories, ma quando l'abbiamo provato a casa di amici o in area dimostrativa o nella manifestazione tal dei tali, abbiamo visto il caso che c'è nel gioco base. Cosa ce ne facciamo adesso del gioco se sappiamo già com'è la storia? Effettivamente ha questo difetto, cioè tu inviti 5 persone a casa tua, giocate, tiene fino a... vabbè, 4, non lo so quanti tiene, vabbè. Fino a 4 giocatori. Va bene, allora inviti 3 persone a casa tua, giocate a Time Stories, base, queste 3 persone poi non compreranno il gioco base perché Esatto. sanno già quella storia, l'hanno giocata con te, sanno già cosa succede e come va a finire. Dovrebbero comprare il gioco base più espansione, ma visto che nel gruppo ce l'hai già tu, che senso ha? E il difetto appunto che è stato fatto notare a Space Cowboy è proprio questo. La gente dice vorrei comprarlo, ma sinceramente non ha senso che lo faccia, anche perché ogni espansione sono 30 euro, quindi 30 euro per rigiocare al gioco, cioè vuol dire che ogni volta che tu vuoi rigiocare a quel gioco che hai già pagato, devi pagare 30 euro. attenzione, non è solo questo il problema. Oltre a essere un gioco che comunque ha una scatola di una certa dimensione, cioè una scatola di media e grande dimensione, quindi sì, è un buon gioco da tavola di grandezza, è un gioco monouso e ha tante espansioni che sono monouso anch'esse, quindi occuperà molto più velocemente e facilmente uno scaffale. Cioè è anche un fattore di spazio, oltre a un fattore di tu hai ancora meno acquirenti, perché se è un gioco comune tu lo fai giocare dei amici, gli piace, se lo comprano anche loro per giocarlo a casa, questo non lo possono comprare perché lo giochi solo una volta. Oltre a questo anche il fattore dello spazio, tu ti compri Time Stories, ti compri le 4 espansioni e hai già occupato uno scaffale intero che poteva tenere molti altri giochi che giocherai più spesso, mentre questo qui non lo puoi rigiocare. Certo. Quindi visto da un certo punto di vista può anche essere un gran bel gioco. Adesso io non l'ho giocato, conosco la grafica, conosco proprio il minimo indispensabile da sapere, perché sennò è tutto uno spoiler questo gioco, però ha tanti difetti, sia di spazio sia il prezzo in sé, perché comunque alla fine non è proprio un gioco, lo definiscono più come un'esperienza, cioè. Sì, puoi vederlo come un film quasi quasi. Infatti è quello il problema, nel nostro gruppo, anzi nella nostra associazione non c'era nessuno per questo motivo qui, perché una persona non vuole investire in una cosa che provi solo una volta. Infatti è stato proposto l'altro giorno di fare un acquisto di gruppo, cioè ognuno mette 3 euro, compriamo una copia di Time Story e poi a gruppi di 4 se lo giochiamo. Ok. Mi sembra la cosa più fattibile per l'associazione, e in modo che tutti possano provare questo gioco senza doversi dilapidare, senza dover svuotare il portafoglio. Però attenzione, questa è una cosa fatta tra un gruppo personalmente, perché come associazione divulgativa non ha senso mostrare questo gioco a delle persone che dopo non potranno comprarlo. No, perché abbiamo già spiegato. È infatti, come non ha senso ad esempio che qualcuno ci richieda: questo venerdì vorrei venire da voi a giocare a Time Story. Cioè, glielo puoi dire, guarda, se vuoi te lo spieghiamo, se nel caso ce l'avessimo, nel caso facessimo questo acquisto. Lo giochi ma non lo giocherai mai più dopo. Sì, e gli spieghi, guarda, se vuoi te lo spieghiamo e lo provi, ma cioè, è come se stai guardando un film e nel caso la partita non finisce hai visto la prima metà del film e sai già com'è, nel caso finisce il film l'hai già visto e ogni volta sarà sempre lo stesso. E infatti questa è proprio la nuova sì. Sì, è una nuova tendenza, ma io lo trovo abbastanza sbagliato questo tipo di meccanica. Proprio, cioè, non è che è una brutta meccanica, ma ha tutte queste falle. Cioè, se non sei un collezionista non hai motivo di comprarlo. Guarda, sarebbe sbagliato se te lo vendessero con l'inganno. Si sa che è così, quindi... Sì, sì, no, si sa, però... Cioè, per carità, c'è chi non si informa e lo compra a scatola chiusa e rimane fregato, e ho conosciuto qualcuno che è successo. Poi però il discorso è comunque... se tu inizi questo viaggio, cioè inizi a comprare Time Story, poi devi comprarti anche le espansioni. Sì, certo, e parliamo di... Cioè, 70 euro già con il gioco base e un'espansione. Sorge su questo difetto, che può essere trovato però anche in altri giochi, ed è per questo che prima dicevo che non è proprio un USZ Time Stories, perché Time Stories comunque ti rimane nello scaffale. L'USZ io lo vedrei più per giochi del tipo Legacy, perché la meccanica Legacy, che è una meccanica che è stata implementata in alcuni giochi da tavola famosi del tipo la serie di Pandemic, che è da cui siamo venuti fuori con Pandemic Legacy Season 1, e quest'anno uscirà la Season 2, dove troviamo una scatola rossa e una scatola blu, delle quali cambia solo la copertina, come per il gioco Abyss, quindi in realtà il gioco è lo stesso all'interno, ma lo possiamo comprare per preferenza di colore di scatola. Hanno questa meccanica che si basa sul giocare il gioco più volte e portare avanti una storia, anche qui, quindi sono una serie di sessioni da giocare con le stesse persone, e nel proseguire la storia certe cose cambieranno. Per esempio abbiamo un Pandemic Legacy o un Pandemic Risico, dove certe nazioni possono essere devastate, certi personaggi possono morire durante la storia, e a questo punto il giocatore deve prendere direttamente la tessera del personaggio o la carta e stracciarla. Quindi siamo arrivati proprio a una contatto ancora più diretto col gioco, simil drammatico, dove addirittura dobbiamo distruggere la componentistica. E il problema dei giochi legacy è che tu spendi un tot di soldi, compri il gioco magari con una colletta, giochi con le stesse persone una serie di campagne, di partite, e alla fine di questo ci sarà un vincitore, però il gioco sarà in parte distrutto e non sarà più giocabile, perché ovviamente sono c'è parte della plancia o delle carte non sono più utilizzabili. E quindi è per questo che io vedo più un legacy come un gioco usa e getta, perché alla fine della fiera ti trovi una scatola distrutta. Cioè, è letteralmente usa e getta, questo è sicuro. Esatto. Ma lo è, cioè qui lo è fisicamente a livello di componenti che proprio vai a rompere. Ma anche Time Story, in un certo modo possiamo definirlo usa e getta, però più a livello concettuale che a livello fisico, ovviamente. Però vedi, Time Stories comunque lo puoi far provare a delle persone che non hanno giocato. Mentre sì, Legacy okay. Non lo puoi recuperare più. No, devi comprare un'altra copia. Giusto, e volevo dire di Time Stories. Appunto, per questa lamentela che ha fatto il pubblico, sembra che la nuova stampata, diciamo, la nuova ristampa di Time Story che uscirà quest'anno, 2017, avrà incluso uno scenario in più di quelli nuovi che usciranno nel 2017, quindi un'espansione. Diciamo che il gioco uscirà già con un'espansione dentro. Quindi in realtà forse vabbè, magari il prezzo sarà un po' più elevato, perché sennò potrebbe essere uno smacco ai vecchi acquirenti. Però oltre a questo non cambia il problema, perché ok, gioco con le persone una sessione, spiega una persona l'altra sessione, ma alla fine della fiera compri il gioco per vedere l'altra metà. Sì, sono sì. Due invece che uno, cioè, mentre un consulting detective tiene 10 storie, questo con due non penso che migliori comunque questo problema. No, è un passo avanti, ma non è, probabilmente non è proprio la cosa migliore che potevano fare. C'è anche da dire ad esempio che consulting detective, per fare un esempio, io ho giocato ai primi due casi. Del primo caso ricordo un paio di indizi, del secondo caso non mi ricordo nemmeno di cosa parlava, per dire. Sono ma passati, comunque, sono c'è passati anche da dire, 4 sì. anni tipo. C'è anche da dire che i casi di consulting detective hanno una certa durata, comunque 2 orette, 3 ore di gioco durano. Beh, adesso Time Stories lo dico, dicono che sia un gioco da 1 ora e mezza, Non lo so, questo non te lo so dire perché non neanch'io, però ho stimato nei vari siti che 1 oretta e mezza, 2 ore dovrebbe finire una partita. Ed è quello lì il gioco, ce n'è una sola di partita. Bene, tornando alla Space Cowboy, la ditta Space Cowboy, è stato in vena di annunci questa settimana, perché oltre a queste espansioni Time Stories e tutta la linea Sherlock Holmes, hanno annunciato anche l'espansione di Splendor, Cities of Splendor, che sarà una espansione contenente mini espansioni, quindi praticamente una scatola con dentro delle meccaniche che possono essere integrate al gioco a piacimento, un po' come l'ultima espansione di Battlestar Galactica, che aggiunge 3 varianti che puoi mettere nel gioco come ti pare. Quindi questo Cities of Splendor conterrà mini espansioni che il giocatore va a integrare come preferisce. E poi hanno annunciato Victorian Mastermind, un gioco creato in collaborazione tra Lang e Bauza, quindi due dei giovani autori tra i più stimati. Giovani, non sono giovanissimi. Beh, rispetto, però... rispetto agli altri sono i giovani loro. Okay. Rispetto a Wallace, Knizia, Randolph, Feld e tutti gli altri. E Victoria Mastermind, appunto, ritorniamo sempre a Sherlock Holmes, perché è un gioco ambientato nella Londra vittoriana dopo la morte di Sherlock Holmes, e quando tutti i geni malvagi di Londra fanno del loro peggio per portare scompiglio in città. Un gioco che tra l'altro i due autori stanno è un gioco su cui i due autori stanno lavorando da 2 anni, quindi probabilmente nel tempo libero, considerando quanti giochi hanno creato in questi 2 anni. Ad esempio di Lang sta per uscire Rising Sun. E poi sempre la Space Cowboy ha annunciato anche il gioco Unlock, che tra l'altro è un gioco che sembra avere attirato molta attenzione su di sé, infatti ne parlano molto. Non so niente di Unlock, Mai sentito. però. Anche se è sempre un gioco a scenari, credo. Ah, ormai sono tutti giochi a scenari, quelli, gli ultimi giochi di media grandezza che escono. Sì, perché comunque anche molti giochi di miniatura in realtà sono giochi a scenari, però comunque sono scenari rigiocabili, ma... Allora, qui dicono che è un gioco cooperativo di carte, Sì, ispirato che... agli escape room. Ah, ok, è un escape room. E quindi anche questo probabilmente i metodi per scappare dalla stanza saranno monouso. Chissà. Se fosse così sarebbe un altro gioco in stile Time Story. Però Se almeno questo è un fosse così. gioco di carte, quindi avrà un prezzo più contenuto. Sì, costerà 25-30 euro. Ah, prima tu hai detto una cosa che mi ha fatto venire in mente un evento che è successo. Hai detto che Time Stories, il fatto che Time Stories comunque sia monouso, cioè monouso, abbia una sola partita, ti dia solo una partita praticamente. Era un po' una presa in giro agli acquirenti, o comunque non l'hai detto proprio con queste parole, ma più o meno era questo il succo. C'è una cosa ancora più presa in giro che è successa proprio in questi giorni. La Prodos Game, la ditta di miniature inglese, famosa per i Kickstarter di Alien vs Predator, At the End Begin e per la nuova edizione del gioco di miniature di Mutant Chronicles, ha annunciato la nuova e Revised Edition di The Hunt Begin, il gioco di Alien vs Predator. Parliamo un attimo di cosa è successo con questo gioco, con una nascita molto tormentata. Anche Che noi conosciamo bene, anche perché tu perché, ci possediamo il gioco. sì, ho regalato il gioco alla mia ragazza un anno fa. No, no, sì, un anno, un po' più di un anno fa. Allora, praticamente, tutto inizia con un Kickstarter. La Prodos Game, reduce del successo del Kickstarter di Mutant Chronicles Warzone Resurrection, questa nuova riedizione del gioco di miniature nell'universo di Warzone, di Mutant Chronicles, non di Warzone, lancia un Kickstarter ispirato al brand Alien vs Predator, con tanto di diritti pagati alla Fox, ovviamente, e quindi diciamo un progetto abbastanza ambizioso. Questo è successo nel 2013, se non sbaglio, quindi 4 anni fa. Il progetto è andato abbastanza bene, anzi molto bene, perché ha raccolto una bella cifra. Adesso non c'è più la pagina Kickstarter e spiegheremo tra poco perché. E se non ricordo male, aveva raccolto circa 200.000 dollari o qualcosa di simile, ma vado a ricordi, sono passati 4 anni. Quindi sono passati questi 4 anni e nel frattempo la Prodos continua a far vedere immagini, foto del prodotto, di come uscirà e tutto il resto. Nel 2015 finalmente il gioco è pronto, quindi dopo 2 anni. Ma cosa succede prima? Prima, da un giorno all'altro, la pagina Kickstarter viene oscurata con il messaggio che la pagina è stata rimossa per cause di problemi legali dovuti all'infrazione di copyright. A quel punto scoppia il panico tra i baker che iniziano a fare teorie per cui la Prodos in realtà non avesse pagato i diritti alla Fox e quindi sono stati querelati. In realtà il problema era di un altro tipo, almeno a quanto dice la Prodos Game, la Fox ha dovuto approvare ogni singolo tile del gioco. Infatti, nella prima edizione del gioco, nei token della ventola, cioè proprio questi token, così chiamata una grata, c'è il loghino piccolo Fox, anche lì l'hanno dovuto mettere, anche nella grata. E ogni approvazione di questo materiale richiedeva un sacco di tempo e la Prodos doveva aspettare che la Fox comunque desse il via libera e che qualcuno visionasse il materiale. E da quello che dice la Prodos Game, ad esempio, soltanto per i facehugger ci sono voluti mesi, mentre e soltanto per un pezzo del gioco, per un tipo di miniatura sui tanti tipi che ci sono. Quindi diciamo che, secondo quello che dicono, il gioco è stato approvato a scaglioni e il progetto è rimasto bloccato. E appunto, finché non c'è stata l'approvazione della Fox, la pagina Kickstarter è stata oscurata per poi essere addirittura rimossa. Comunque, nel 2015 il gioco esce. E il problema è che esce nei negozi prima di arrivare ai Baker. La Prodos dice di aver mandato una prima spedizione ai Baker. Oggi, in teoria, siamo alla terza wave, come viene detto, quindi al terzo giro di spedizioni. Nonostante siamo al terzo giro di spedizioni, c'è una quantità enorme di persone che non ha ricevuto il materiale e che continua tutti i giorni a bombardare la pagina della Prodos di illazioni. Quindi, nonostante il gioco sia arrivato nei negozi, ci sono Baker che hanno pagato una cifra assurda per questo pre-order, che non hanno mai ricevuto dopo 4 anni quello per cui hanno pagato. Inoltre, la Prodos fa orecchie da mercante, non risponde, se ne frega di quello che scrivono questi Baker e continua a mandare avanti progetti abbastanza strani come Star Crusade. Questa versione di Warhammer 40.000 con solo donne succinte e mezze nude. E quindi in questa settimana la Prodos ha annunciato una revised edition di Alien vs Predator di Hunt Begin che avrà le miniature unicast, quindi non saranno più da assemblare, non saranno più in parti di resina da tagliare dagli sprue e assemblare con la colla, ma saranno tutte d'un pezzo. E inoltre ci saranno regole revisionate, nuova grafica per tutto il materiale, una scatola più piccola e più comoda, il foam per contenere le miniature e tutto questo a quasi 30 € se non di più in meno nel prezzo del gioco. Quindi non solo i Baker si sentono presi in giro perché comunque anche se mai arrivasse il gioco gli arriverebbe la versione vecchia, ma anche chi ha comprato la versione vecchia si sente preso in giro perché ha pagato 30 € in più il gioco con tutti i suoi difetti, ovvero un regolamento non revisionato, una scatola gigantesca senza protezione per le miniature che andavano pulite ed assemblate e erano molto castate male, se posso, io che le ho montate e dipinte. Quindi ti Qui senti preso in giro tu? no, perché ormai è passato un anno e mezzo, però diciamo che la Prodos non ne fa una giusta. Sicuramente questo non li aiuta a recuperare pa parte degli acquirenti persi. No, non c'è proprio rispetto. Anche perché comunque si sono fatti un cattivo nome nel mondo delle miniature che non penso si toglieranno mai. Che poi cioè, ci fu anche il problema che non arrivando in Kickstarter della gente il gioco uscì prima nei negozi anche perché cioè, ci sono persone che hanno dovuto aspettare ma si trovava anche già nei negozi in quel momento. Ci sono persone che aspettano ancora, oltretutto. Sì. E questo. Queste cose comunque nascono dalla tendenza che c'è stata qualche anno fa di comprare diritti di film o serie famose che non in questo momento non interessavano agli altri editori, ma potevano interessare a un bacino di fan, e fare un Kickstarter. Infatti, negli ultimi anni sono usciti Kickstarter di giochi da tavola basati praticamente su ogni brand possibile, da il fumetto di Walking Dead, visto che il film è già un brand più litigato tra le major, o Terminator, ad esempio, è uscito sia il gioco da tavolo di Terminator Genesis, quindi del mondo di Terminator nel quarto film, nel quarto e nel quinto film, dopo che Skynet ha quasi estinto gli umani. E da poco è stato annunciato il Kickstarter del gioco del primo film di Terminator. Poi abbiamo avuto le Tartarughe Ninja, il fumetto, scusate, il fumetto, Tartarughe Ninja del fumetto. Abbiamo avuto i Ghostbuster. Adesso ho uscirà anche il gioco di Buffy the Vampire Slayer, il gioco da tavolo, e il gioco da tavolo di Grosso Guaio a Chinatown. Insomma, stanno recuperando un sacco di... il gioco da tavolo dei Goonies. Ah, questo non lo sapevo. Sì, c'è pure quello. Stanno recuperando un sacco di brand degli anni 80 o 90, come Buffy, per dire. Grazie all'esposizione che c'è adesso per i giochi da tavolo con internet, in cui è possibile vendere a tutto il mondo e raggiungere anche con bacini di utenza piccoli, di poche migliaia di persone, riuscire comunque a fare un buon guadagno. Un gioco invece che non è stato molto un film che non è stato molto fortunato è Warrior, I Guerrieri della Notte, Sì. perché hanno tentato di fare un Kickstarter di miniature su Warrior senza pagare i diritti, quindi chiamando tutto con un altro modo, però si vedeva benissimo che era quello. E no, il Kickstarter è fallito, stranamente. Ah no, hanno fatto anche quello ufficiale del film. Scusa, c'è stato uno di miniature non ufficiale, e poi hanno fatto anche il Kickstarter ufficiale del film Warrior, che tra l'altro dovrebbe essere finito. Diamoci un'occhiata. Però ha fallito. Ha raccolto 33.000 dollari su 100.000. Purtroppo è andata così. Peccato per i nostri guerrieri della notte. Ok. Una cosa che volevo dire ai nostri ascoltatori, e che mi sono scordato di dire la volta scorsa, è di andare a visitare la sezione contest di Board Game Geek, che può essere utile perché è possibile vincere copie esclusive di giochi da tavolo, soprattutto di Kickstarter, compilando dei semplici questionari. Quindi cercate Board Game Geek contest, poi andate nella sezione official contest, perché c'è anche quella dei contest organizzati dalla comunità, come quelli della miglior foto del mese, e ogni mese vengono proposti almeno due o tre contest in cui, compilando un questionario sul regolamento del gioco, è possibile partecipare a un'estrazione in cui si vincerà una copia esclusiva del gioco, tale quale a quella del Kickstarter. Poi, che altro abbiamo da dire? Vediamo. Sì, direi che abbiamo ancora un po' di trasmissione prima di chiudere. Vediamo un po' cos'altro è stato annunciato. Allora, un brand che sta andando molto bene è Rick e Morty, perché sono stati annunciati più di un board game basati su questa serie, questo cartone animato. Abbiamo un deck building, poi Anatomy Park Game, e poi Munchkin Rick e Morty, ben tre giochi basati sullo stesso brand. Io non ho mai visto questo cartone animato, ma deve andare molto. Vabbè, Munchkin cioè, prende ogni cosa esistente, quindi quello possiamo anche. Era anche abbastanza scontato. Sì, quello sì, però effettivamente deve andare molto, perché ben tre giochi su questo brand, nemmeno Adventure Time ha così tanti giochi su basati su quella brand. E poi è stato annunciato Spyfall versione DC Universe. Bene. Vabbè, tutte queste robe strane. Ma Poi considera che Spyfall ha avuto un gran successo in America. Quello è un gioco che puoi vederlo come alla fine che diventa. È più che altro una meccanica, quindi è come Munchkin. Puoi cambiare tranquillamente tema, che tanto basta cambiare le locazioni. ah sì, è come Love Letter, infatti. E poi è stato annunciato anche nome in codice Disney. No, è Disney, solo Disney? Perché vedo che c'è anche Ok, Spider-Man. quello può essere Ah, ecco. utile. Quello può essere un gioco utile quando giochi con dei bambini, Sì. effettivamente. Anche se comunque Nomi in Codice Base non aveva queste problematiche, non abbiamo questi paroloni complicati, cioè abbiamo Re, Regina, Cavallo per dire. Vabbè, sono arrivati a fare nomi in codice con le parolacce, quindi. Sì, l'hanno fatto di ogni genere, però a mio avviso nome in codice dava benissimo quello base, non c'è bisogno di averlo con le figure o con altre tipologie, perché non era complesso per nessuno, l'abbiamo visto bene noi che abbiamo il gioco quello classico. Quello classico copre qualunque età, cioè ovviamente non i bambini più piccoli, però anche perché quelli più piccoli non riescono ancora a parlare. Comunque copre dai giocatori più giovani ai giocatori più adulti tranquillamente, non c'è bisogno di comprare edizioni particolari. L'unico è nel caso in cui un tuo amico ha già l'altra versione, tu per cambiare ne compri una differente. È che praticamente arrivo, e non mi adesso ci provo a dirlo, la Xek Games, la casa editrice di Nomi in Codice, ha raggiunto un accordo con USAopoly, che è la casa editrice che si occupa dei diritti di Monopoly e dei Trivial Game, che quindi ha già avuto accordi e lavora spesso con realtà come la Warner Bros, la Nintendo, la HBO e così via. E i primi due risultati di questa unione sono Nomi in Codice Disney e Nomi in Codice Marvel, ma conoscendo come lavora la USAopoly, negli prossimi anni mi sa che vedremo molti Nomi in Codice, diventerà una sorta di nuovo Monopoly, temo. Sì, Star Wars, Cthulhu, quello che vuoi. Ma più Cthulhu no, perché nessuno detiene i diritti di Cthulhu, però ad esempio potremmo avere Nomi in Codice Big Bang Theory o Nomi in Codice Il Trono di Spade. No, ho capito, ha preso con andasso lì. Sì, dopo ha preso aver vinto lo Spiel der Jahre, ok. E quindi se oggi noi gamer, quando incontriamo una persona che non è un gamer e ti dice: ah, io di giochi a tavolo conosco solo Monopoly e Trivial e Risico, tra 30 anni i non gamer diranno: io conosco solo Double, Nomi in Codice e Dixit. Sono i nuovi classici, insomma. Sì, sì, infatti. Adesso alle aree demo, ad esempio, vedi i ragazzini che comunque non sono giocatori, che quasi tutti i giochi sono novità per loro, che però Dixit lo riconoscono perché ci hanno giocato a casa di qualcuno, o Double, perché ci hanno giocato a casa di qualcuno. Sì, sì, sono e i classici. E anche Ticket to Ride, sì. Sono quelli che hanno venduto di più. E Nomi in Codice diventerà così, probabilmente. Che... per adesso, vabbè, per adesso è ancora normale, dopo verrà brandizzato in tutti i modi possibili, però almeno comunque è un gioco da una piacevole meccanica. Beh, dopo tutto l'altro giorno abbiamo visto che hanno fatto Timeline Star Wars, cioè era proprio necessario. Beh, per i fan più accaniti, anche perché se non sei un fan accanito non riuscirai a fare neanche un punto. Comunque. Invece per i fan di Cthulhu è stato annunciato, in realtà già da un po' che è stato annunciato, ma sono uscite le prime immagini del gioco delle montagne della follia, Mountain of Madness, questo cooperativo basato sul racconto di Lovecraft, quindi per una volta un gioco basato sui racconti di Lovecraft che dovrebbe essere fedele senza aggiunte... stupidine, diciamo, prese dai suoi discepoli, autoproclamati discepoli, o da scrittori a caso tipo Eldritch Horror, dove ci hanno messo un po' di tutto. Attenzione, Mountain of Madness è l'espansione di Eldritch Horror, mi sa che hai sbagliato titolo. No, cioè, è stato annunciato, la Yellow ha annunciato anche il gioco Mountains of Madness, che sarà in esclusiva allo Spiel del 2017 a ottobre, quindi a ottobre alla fiera Spiel verrà presentato il gioco ufficialmente. Okay. Quindi diciamo che in Italia lo vedremo la prossima primavera, probabilmente. Sicuramente un editore non se lo fa scappare, tutto ciò che ha tema Cthulhu in Italia arriva in un modo o nell'altro. Bene. Tra l'altro è un cooperativo molto, sembra molto interessante, ci sono anche immagini molto sì, carino. È abbastanza differente dai classici giochi di quella grandezza di Cthulhu. Questo qui sembra più, cioè, sembra più di carte che meno American, diciamo, meno dadi da 6. Poi sempre la Yellow ha annunciato diversi titoli la sua scuderia di autori sta lavorando a Sticky Chameleons, Fairy Tail, Sentai Cats e Itohira. Allora, mentre Itohira dalla copertina sembra un gioco di Katala, perché c'è questa geisha che guarda un albero di ciliegio, molto bella come copertina tra l'altro. Sentai Cats è un gioco dove la copertina c'è un gatto Power Ranger, quindi passiamo oltre. Poi abbiamo Fairy Tail, in cui c'è una donna che si sta confrontando con un drago. E poi abbiamo Sticky Chameleon che sembra un party game. Più di questo non posso dire perché non si sa niente, ancora sono tutti giochi work in progress di cui hanno annunciato solo le copertine e gli autori a cui stanno che ci stanno lavorando. Ah, tra l'altro hanno annunciato anche la prima espansione di Big Book of Madness, il grande libro della follia. Che è Vedremo quella. se riuscirà a dare un impatto migliore al gioco base che perde Il col grande tempo. libro della follia, la prima volta che ci ho giocato, ho detto: questo è il cooperativo più innovativo che abbia visto negli ultimi tempi. Alla seconda partita mi aveva già stufato il gioco. Ne abbiamo già parlato, Già. però come abbiamo già visto in passato, certe espansioni possono salvare dei giochi base, quindi non si può mai sapere. Sì. Infatti, non dico che. Cioè, sicuramente ha bisogno di un'espansione. Sempre parlando di espansione, è stata annunciata anche l'espansione di Crossover Crisi, il deck building su Cartoon Network della Cryptozoic. E sempre la Cryptozoic ha annunciato anche il deck building di Teen Titans Go. A quanto pare sono buttati sui cartoni animati, hanno degli accordi con Cartoon Network e con la DC più che altro, perché la Marvel adesso appartiene alla Disney. Infatti qui della Marvel non vedo niente, è tutta la Cryptozoic ha tutti i giochi DC in catalogo. E poi, ah sì, poi c'è il gioco dell'attacco dei giganti, Attack on Titan, che hai visto la componentistica? No, adesso vado a Vado a scrutchiare. vedere per favore. Tra l'altro l'autore è Ludovic Mablanc, almeno è un autore, è un autore molto Sì, bravo. Mablanc è è quello presente. di... Arrivo, eh. Datemi un secondo, che in questo momento non mi riesco a ricordare. Non ce la posso fare. Non ricordo, penso di aver qualche suo gioco, ma adesso non mi vengono in Anch'io ho un gioco di mente. Montblanc, ma in questo momento non mi viene in mente qual Sì, vedo degli enormi standees, cioè praticamente una scalata di mostri, è. quanto Sì, c'è parla questo questo titano gioco? gigante con i vari piani in cui sali. Ok, questo è ispirato a un classico manga che ha spopolato, che è stato ultra amato nell'ultimo periodo, anche se il manga è niente di speciale a mio parere, Ma però in e realtà poi dipende dai più gusti. l'anime che il manga ha avuto Sì. successo. Però anche questo è una buona tendenza, il fatto che i manga e gli anime possono avere giochi da tavolo che arrivano anche in Occidente, perché effettivamente è una cosa che manca. Ad esempio, mi è capitato di vedere un gioco da nella mia fumetteria, tra l'altro, in vendita un gioco da tavolo di One Piece, più che altro perché una persona si era pentita di averlo comprato e ha cercato di smerciarlo tramite la fumetteria. E il gioco era Water 7 qualcosa, non ricordo, era ambientato nella saga di Water 7, ma il titolo del gioco non me lo ricordo. E sono andato a vedere, nel caso potesse essere interessante come acquisto. E è un giochino del cavolo per bambini. Invece, se autori come Mablanc lavorano su brand come gli anime e manga, possono uscire dei titoli veramente, veramente interessanti. Ad esempio, un titolo che mi interessa tantissimo e che ci rifà allo stile anime. È arriva, Tragedy Looper. Ecco, è tutto il weekend che mi sbaglio, dico Tragedy Looper. Comunque, giusto una cosa, non ci ricordavamo che giochi aveva fatto, è l'autore di Cash and Guns. Ah, Cash and Guns, Mau Blanc. ecco. Accidenti, ecco dov'è che leggevo sempre il suo nome. Vabbè. E quindi abbiamo Attack on Titans. E poi anche un nuovo gioco delle tartarughe ninja, vedo. È stato annunciato. Abbiamo Acrotori, Catan, Ashes, nuove espansioni per Ashes. Quanti nuovi annunci che ci sono. E poi abbiamo Teenage Mutant Ninja Turtle, il nuovo gioco da tavolo, diverso dal gioco fatto col Kickstarter. E poi Dice Forge, anche questo è un gioco di cui si sta parlando molto. Questo è un vero e proprio dice building, Dice Forge, in cui andiamo letteralmente a creare i dadi, perché i dadi sono componibili e possiamo aumentare le facce tramite dei tile che vanno a incastrarsi nel dado. Si è già parlato di dice building nel mondo dei giochi da tavola con giochi come Quarriors, ad esempio, dove andiamo a creare il nostro pool di dadi durante la partita. In questo gioco, Dice Forge, andiamo veramente a creare il dado perché modifichiamo proprio le facce tramite questi dadi componibili. Ah, e poi è vero, è stato annunciato anche un nuovo gioco da tavolo su Firefly, la serie TV, tra l'altro un gioco di miniature. Strano, ma vero. Per Firefly aveva già un gioco dedicato della Gale Force 9. Bene, bene. Ok, e come dicevo prima, un gioco che ha attirato molto la mia attenzione in quel di Rovigo è stato Tragedy Looper, che è un gioco che potrei seriamente prendere in considerazione di comprare. È questo gioco in cui noi interpretiamo una squadra speciale. No, aspetta, sto sbagliando. In cui i nostri personaggi hanno la capacità di tornare indietro nel tempo per modificare le tragedie, appunto, tipo morti o cose simili. E quindi noi andiamo a tornare indietro cercando di migliorare la situazione e fare in modo che la tragedia non avvenga. E penso abbiamo anche più tentativi per fare questa cosa. Il gioco purtroppo non l'ho provato, quindi ci sono anche qui scenari diversi che includono serial killer e terroristi. E anche un suicidio, a quanto pare. E l'interessante c'è da dire che l'edizione che è arrivata anche in Italia tramite Asterion ha il disegno anime molto bello, a me piace molto come Esatto, perché stile. in realtà se vai a vedere non sarebbe quella lì la copertina, è lo stile grafico. Esattamente, perché c'è anche un'edizione, quella che la Devir ha portato in alcuni stati come la Spagna, che invece ha uno stile di disegno più simile a Pandemic, per dire. Sì, è più disegno dal vero. Sì, esatto. Che comunque è molto bello anche quello, però sinceramente se non avesse lo stile anime non mi avrebbe attirato praticamente il gioco, perché appunto avendo questo disegno anime emerge di più in mezzo alle altre scatole. Se fosse stato con quell'altro stile di disegno era boh, una scatola tra le tante. E appunto Tragedy Looper ha anche una cosa interessante, l'ultima cosa poi chiudiamo. Dicevamo prima che Time Stories, la prima partita che fai è anche l'ultima, per modo di dire, perché comunque la storia è quella. Tragedy Looper ha uno scenario introduttivo per i nuovi giocatori, quindi comunque diciamo che i nuovi giocatori vanno, quando provano il gioco, vanno a esplorare e a finire solo questo scenario che dopo non rigiocheranno. E il vero bello del gioco se lo lasciano per dopo e possono comprarsi la loro copia e giocarselo per i fatti loro. Insomma, la prima partita non spoilerà niente, a parte uno scenario fatto ad hoc che probabilmente sarà anche poco divertente, perché di solito gli scenari tutorial sono una bella Sono rottura, sì, vero? sono tremendi. Io ne ho provati anche troppi. Parliamo di Andor, poi Ma vediamo soprattutto di Quizmaster Crossmaster Quest, quello è veramente Quest. tremendo. Ma anche Zombicide, gli scenari, quelli tutorial sono una noia assurda. Ma SMSX no, forse gli scenari tutorial ma SMSX non è Non malvagio. ce l'ha uno scenario Beh, tutorial, è la prima quest. il primo, Vabbè, ma la il prima primo sì. quest è tutorial, dai. Ma anche no, c'era due cose che se ti dice ti dà gli oggetti giusti per surpassare certi punti, ma comunque se ti gira male vieni massacrato, come nelle altre missioni. Va bene. Ok, Direi che oggi abbiamo tergiversato abbastanza, abbiamo parlato del più del meno, delle nuove uscite del mondo dei giochi da tavola, speriamo di non avervi annoiato. Abbiamo scordato di dire anche che uscirà anche Pandemic Legacy Season 2, ovviamente con due No, ma scatole. l'avevo già detto io quando parlavo della meccanica Legacy. E ovviamente con due scatole, così chi vuole può spendere più soldi. Ok. Direi che possiamo salutarci qui. Diciamo che potete trovarci tutti i lunedì in diretta alle 8 su Radio Big World, sulla radio, mentre i vecchi episodi, o comunque se è un episodio non potete ascoltarlo lunedì alle 8, li trovate sempre sulla pagina di Alla Conquista del Gioco del sito Radio Big World o sul canale SoundCloud di Radio Big World, dove potete anche commentare e lasciarci delle impressioni. Per il resto, con Area Games, in questo momento di aree dimostrative, per le aree dimostrative ci vediamo ai primi di maggio, ancora il weekend, non so se è il primo o il secondo, a Forlimpopoli per Fiorimpopoli, e noi possiamo vederci al Play, se volete venirci a fare un saluto, saremo al Play di Modena il primo weekend di aprile. Bene, direi che possiamo salutarci qui e alla conquista del gioco è tutto, e anche da Claudio e Pietro. Ciao! Buonanotte a tutti.